M&M. Sai che si dice prendere il toro per le corna, no? Sì. Ma sarà una buona idea? Acciughe fanno il pallone, che sotto c'è l'ala lunga. Se non butti la rete, non te ne lascia una. E alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente. Questi pesci sorpresi li venderò per niente. Se sbarcherò alla foce, e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente. Ogni 3 anni c'è una stella marina, amo per amo c'è una stella che trema, ogni 3 lacrime batte la campana. Passano le villeggianti con gli occhi di vetro scuro, passano sotto le reti che asciugano sul muro, e in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente. L'hanno vista e nessuno la prende. Ogni 3 ami c'è una stella marina, ogni 3 stelle c'è un aereo che vola, ogni 3 notti un sogno che mi consola. Legata stretta come un'esca da trascinare, sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare. Ogni 3 anni c'è una stella marina, ogni 3 stelle c'è un aereo che vola, ogni balcone una bocca che mi innamora. Ogni 3 anni c'è una stella marina, ogni 3 stelle c'è un aereo che vola, ogni balcone una bocca che mi innamora. Acciughe fanno il pallone, che sotto c'è l'ala lunga. Se non butti la rete, non te ne resta una. Non te ne lascia una, non te ne lascia. Mostratemi un cuore non contaminato da folli sogni e io vi mostrerò un uomo felice. Ma solo nei sogni gli uomini sono davvero liberi. È da sempre così e così sarà per sempre. Di andare la strada verso casa, un panno vecchio, giurerei che stamattina era più liscia di uno specchio. Le urla, i vaffanculo, i morti vari nella ressa, ci faremo il culo a strisce per un piatto di minestra. Cosa rimane dei vecchi quartieri tra SUV e cellulari? Sono morti insieme a ieri. Stasera voglio stare solo e scrivo una canzone, e forse da domani tornerò tra le persone. E hai perso te stesso in ogni giorno che hai abbozzato al compromesso, e suoneranno le lancette come colpi di mortai, e i nostri figli non vinceranno mai. Su questo ponte, Lorca avverte, la vita sogno non è, sveglia e sveglia e sveglia. E sono in molti a credere che, poiché è successo l'allora, l'adesso non esiste. Ma non sono stato io a dire che l'attuale meraviglia di questo momento è la figlia. Siamo tutti coautori di questa esuberanza danzante, perché perfino le nostre incapacità stanno facendo un barbecue. Noi siamo gli autori di noi stessi, coautori di un gigantesco romanzo di Dostoevskij con protagonisti dei clown. Questa cosa che ci coinvolge e che chiamiamo mondo è un'opportunità per dimostrare quanto possa essere eccitante e stimolante l'alienazione. La vita è in pratica un miracolo, una raccolta nel tempo di momenti sbalorditi dal fatto di trovarsi l'uno di fronte all'altro. Il mondo è un esame per stabilire se sappiamo davvero elevarci alle esperienze dirette. La vista è un esame per stabilire se sappiamo guardare oltre. La materia è un esame per la nostra curiosità. Il dubbio è un esame per stabilire la nostra vitalità. Thomas Mann scrisse che preferiva partecipare alla vita piuttosto che scrivere 100 racconti. Giacometti una volta fu investito da un'auto e lui ricorda di essere caduto in un lucido deliquio, un'euforia improvvisa, quando si rese conto che finalmente qualcosa gli stava capitando. Si sta affermando l'ipotesi secondo cui non si può capire la vita e viverla contemporaneamente. Ma io non sono completamente d'accordo, vale a dire che dissento solo in parte. Io invece direi che una vita compresa equivale ad una vita vissuta. Ma i paradossi come questo mi rompono e io posso imparare ad amare e a fare l'amore con i paradossi che mi rompono. E nelle romanticissime serate con me stesso vado a ballare la salsa con la mia confusione. Prima di addormentarti, non dimenticare, il che vuol dire ricorda, perché il ricordare è un'attività decisamente più psicotica del dimenticare. Lorca, in quella stessa poesia, diceva che l'iguana finirà per mordere coloro i quali non sogna. E quando ci si rende conto di essere un personaggio dei sogni, ma dei sogni di qualcun altro, è allora che si ha la consapevolezza di se stessi. Col giallo passi o ti fermi? Col giallo non puoi tentennare.